la gente poi si spaventa e prende un po' di precauzioni, capite oggi? Scusate un attimo, sono rientrato, scusate, ma era il telefono. Vai già, che faccio uscire a Peppino a fare la pipì e prendere i pezzi. Mamma mia, tutti quanti con questa... Ma non sai le file che ci sono in via Morris sotto casa, Clara? Da quelle dottore che c'è in via Morris. Ui, c'è la fila sino a fuori. Tutto pieno, ogni mattina, ogni sera, pieno zeppo. Gli direi che prendi a 50 euro a tampone. Ui. Intanto io immagino, lo sale. Esatto. Sta pagata, è pieno sempre di gente, la gente sta temendo, c'è poco da fare. Però bisogna farlo, vedi, Eugenio aveva le sintomi influenza, è andato, l'ha fatto, è sicuro, tranquillo, così. Dai, torno subito, Carlo, riprende e fai girare. Sì Gianni, ma dove c'è il laboratorio delle analisi lì, via Mores? Esatto, ti dia bicuglioni. Ho capito. Lo immagino la fila, ma è dappertutto, io vedo file un po' dappertutto, qua vicino dalle parti di casa mia c'è un laboratorio di analisi privato in via Pasubio, e anche lì fanno il molecolare, fanno tutti e due, ma fanno soprattutto il molecolare, c'è la fila sino a via Savoia a volte. Mamma mia che simpatico è quel dottore, guarda, ha una simpatia allucinante. Grazie a Dio non ne ho avuto bisogno di fare nessun tampone, ne ho fatto un paio, ma me li hanno fatti gratuitamente quelli dell'ATS che venivano in aeroporto la sera, avanzavano campioni e quindi ci chiedevano a noi se c'era qualcuno e l'ho fatto tre volte, però era quello rapido e la mattina seguente ti arrivava l'esito, tutte le volte, tre volte che l'ho fatto sempre negativo. Anche noi al porto, anche a noi ce lo facevamo gratis al porto. Stavo dicendo, c'è una simpatia quel dottore, quello sotto casa tua, per carità. Davvero? Ehi, vabbè. Kappa, Claudio, devo darti ragione, lo sai, che come sta scaldando sta salendo. No, è uscito a far fare la pipì al cane. Sto dicendo, e poi fa da segretario, risponde al telefono, prende appuntamenti, fa i tamponi, un macello. Sale su perché dentista, c'è anche il laboratorio di dentista, quindi ha mille cose, guadagna tutte le parti. È allucinante, addirittura a me, siccome è convenzionato con la capitaneria, che poi non so come abbia fatto, comunque però, è convenzionato con la capitaneria, cioè, noi abbiamo fatto già le visite quando stavamo facendo le visite mediche, sono andato ad urinare, no? Mi ha dato un bicchiere bianco in plastica, normale. Oh, è rimasto lì davanti, ho detto scusi, ma no, io devo guardare, non si sa mai, gli ho detto, sì, cosa c'ho, urina di altri, dentro le tasche, nei pantaloni, nei jeans, oh, è rimasto lì, non si è andato. C'è fatto l'esame, quello per vedere se vivi, quello lì è così oggi, deve vedere praticamente se dai veramente l'urina tua, perché ci sono quelli che fanno il cavolo. Sì, ma non è che posso avere urina nascosta di altri, dove? Cioè, voglio capire, non è che mi faccio urinare dentro le tasche di jeans. Per la bottiglietta, vabbè. Io mi ricordo quando dovevo fare la raccolta delle 24 ore, portarmela al lavoro, portarmi sempre questa bottiglietta presso, andavo in bagno, perché dovevo fare la raccolta delle 24 ore, per non stare a chiedere la giornata di permesso, mi portavo questa bottiglietta sempre appresso. E tanto è vero che una volta una commessa forse ha avuto dei sospetti, mi ha detto cosa c'hai con la busta? Se te vuoi proprio vederlo cosa c'è? Si è rimasta di merda quando glielo devo. Vabbè, è normale. Male. Riprendi Carlo. Evidentemente quello è medico dentista, fa medicina generale, deve essere anche specializzato in medicina del lavoro, no? Se tu l'hai incontrato lì a Porto Torres a fare quel tipo di visite lì, vuol dire che è anche medico del lavoro. Allora lui prima a Porto Torres era in quel laboratorio che c'è dietro il cinema Andrea Paruli, lì. E poi ieri si erano divisi, però mi sa che sono sempre manda le analisi da fare lì, capito? C'è una donna che porta le analisi, le porta giù a Porto Antonio e fa analizzare per i responsabili da lui, capito? Ho capito, Ege, ho capito. Sì, vuol dire che fa le convenzioni con le aziende, sì, perché anche noi in azienda una volta all'anno abbiamo il medico del lavoro che viene, viene da Sassari, ci fa tutte le visite, ci fa il tracciamento, l'elettrocardiogramma, dai, esame del sangue, l'audiometria, la spirometria, la vista, tutto quanto ci fanno una volta all'anno. Sì, sì, anche da noi era così, però lo faceva nella sala riunioni, ce lo faceva lì, capito? Veniva il dottore nella sala riunioni a una entravamo e ci facevano, c'era l'infermiera col dottore, facevano prelievi di sangue, urine, tutto quanto. Sì, sì, è vero, anche a noi lo faceva. Sì, lui è medico anche del lavoro, capito? Per quello. Però deve essere che c'ha qualche appoggio, perché c'ha vigili urbani, forestale, l'azienda quella della lentezza urbana, ed è a diversi di società di vita, capito? Perché praticamente lui l'ha studiata bene e c'ha il laboratorio analisi, quindi quando tu vai da lui, lui ti fa tutto, dalle visite alle analisi, ed è ovvio che le aziende si appoggiano a lui, così fanno un unico appalto, capito? Ti fa tutto lui, l'ha studiata bene. Anche noi già andavamo lì, sia come a Ciona che come a Banoa, tutti lì andavamo a fare le analisi. Anche a Banoa, è vero. Secondo me c'ha degli appoggi grossi, perché ha tutte aziende grosse, c'è anche il vigile urbano. Scatto in politica è un grande, intanto è un grande medico, e poi è una persona seria. Ma simpatico, per carità. Mi ti ha sorriso, diciamo io, non ridi mai, no? Mamma mia, il personaggio, sai che bravo tu con voi, ma... Con che gli anni lo stesso giorno mio di tua moglie, Cla. Oh, esatto, solo che un anno più grande di me. Un anno più grande, del 58. Bene, già 80. Ma comunque ci mandiamo anche gli auguri, siamo amici, capito? Praticamente io avevo un'amica che lavorava da lui, che era la poltrona lì, era infermiera la poltrona. E praticamente lui era scapolo, allora lo portava con lui in Grecia, andavamo in gita insieme, tutto quanto. Lui era ancora giovane quando usciva con lui, capito? Poi vabbè, si è fatto questo ambulatorio qua e ha cominciato a ingranare. Prima ha fatto il dentista, poi si è aperto l'ambulatorio e adesso stava andando alla grande. E cosa ci ha preso? Una infermiera poltrona, quindi non lavorava. Si chiama così quella che aiuta il dentista, Claudio, informa. Assistente alla poltrona si chiama, no? Infermiera poltrona. Infermiera poltrona è una mandrona. È un'infermiera sempre. E vabbè, ma sono assistente alla poltrona, ma se ne varie. Vai Carletto, vai. Io riprendo e saluto perché devo uscire, poi magari ci sentiamo più tardi. Ciao Eugenio, Gianni e Claudio, perché sono le 8:10 e devo andare a ritirare i pezzi di famiglia. Ehi, ehi, Carlo, va bene, un abbraccio, lo sai, sono sempre qua, quando hai bisogno chiamami. Vai Eugenio. Yeah, ciao Carlo, ci sentiamo, vai. Mi hai sentito, stai andando di una bomba, vai. Ci sentiamo magari più tardi se coincide. Ti volevo dire, vicino a casa tua ce n'è anche un altro. Già. Quello dove ti ho trovato a te, il giorno che ti ho trovato, c'è stata la Meridiana. C'è stata la Meridiana, c'è Pier Giorgio Pintore. Noi facciamo le viste da lui e poi andiamo anche da quell'altro. E io anche ho trovato lì, non te lo ricordi che ci siamo trovati la volta che devi fare la visita, che eri in moto. Ehi, già me lo ricordo, che ti ho chiamato io, non mi avevi visto. Cavagava, sì, ci ho capito dove, sì. Ce ne diversi, però lui ha ingranato bene con queste grosse aziende, capito? Tra l'altro comune, vabbè, non saranno, non pagheranno subito queste aziende così, però la volta che ti danno i soldi ti entrano i miei flussi. No, già 30 giorni, 30-60 faceva, no, secondo quanti sono praticamente gli operai che devono fare la visita. Ah, 30 giorni mi ha detto, arrivi alla fattura, ehi, più una volta l'ho detto io le fatture, dottor Sale. Sta pagata. Eugenio, con questa apparecchia, portatore, come ti sto arrivando? Eugenio è sparito. Non so, senti come rulla l'MB più 5 con 757, senti, qui è esso. Ah, rulla. Va bene. Hola, attenzione Eugenio, Eugenio, se mi ascolti, gaba gaba. Aspetta un attimo già che mi sta chiamando il cellulare, mi sta chiamando il cellulare. Carlo, ciao, ci sentiamo, dai, va a riunire il puzzle. Penso, già le 8:05 sono. Poi non aggiungare manco di muovermi, guarda. Non ne ho voglia. Sta abitando questa mandronia, cara, non mi sarà venuta a me con una vita. No, io sono fiacco già, stanco, stanco, c'è un sacco di cose da fare oggi. No, ho fatto un cacchio, niente, mi ho dato due tappettine proprio così, a togliere due ramicce di verba. Adesso domani se ne ho voglia devo andare dell'impegnante dietro del terreno della buona liquida, che hanno finito i muratori, e me la do io quella. Ma se ne aggiungana, se no gli rimane così, non me la fotti nulla. Qua io solitamente mi alzo alle 7, massimo 7 e mezza. Adesso mi sta alzando alle 10 meno un quarto, alle 9 e mezza. Ma mi vedo che sto giorno. Ho il tempo, non lo so. Sì, figurati io. Allora, quando l'aria deve aprire il bar, che si alza alle 6, io mi alzo, le faccio il caffè, le preparo la colazione mentre lei si sta preparando. Ne prendo il caffè con lei, quando lei esce alle 7 e mezza, 8 meno 20, io mi sento come li bisognerete in mezzo. Sì, ma anche io ho sempre l'orario di quando andavo a lavorare, capito? Quindi mi alzo sempre a quell'ora lì, non è che... Solo che ultimamente mi sta prendendo questo sonno, non sai cosa succede, non dormo bene la notte, e poi mi trovo a mangiare. Anche io sto dormendo, la verità. Io sto molto, molto sveglio. Vabbè. Comunque è così. È già pompata la radio, già va bene. Non uso mai, questa è una Discord, è il 757 GX2 Cat System della radio, è simile al 140, un po' più bellina, va? Però non la uso mai. Però va bene. Allora, a me se non la usi. No, il cat la uso, nel senso che uso sempre i capami, però oggi ho deciso di usare questa. E sto usando l'MB più 5 che mi ha fatto riconoscere in Fabrizio, ma è una macchina non altra. Io invece che non uso mai il 3009, anche la stazione base è quella che ho della Inket, quella della Inket. Io non già le radio già, io ben ho il nuovo per cuore, mi ero disfatto, cazzo, invece a una sono rientrate di nuovo tutte, e quindi bisogna farle girare. Fortunatamente non ho il 440 che ha un sacco di problemi, c'è il 140, 430, 757, tutte radio che le puoi lasciare spente, capito? Non succede niente. Lo so. Tanto qua va a finire sempre così che te le vendi e poi ci spendi ancora di più di quello che hai guadagnato vendendo. È sempre così succede, dai. Oppure te le devi ricomprare perché ti piacciono e te le ricompro. Io adesso c'ho il 3009 che fermo un po' di tempo, ma me l'attacco, dai. Attacca banda. Attenzione Claudio. Grazie, c'è una ricezione questo apparecchio che buono, non la cambiare con nessuno, è stereofonica. Va bene, anche la tua è una bella radio, buona. È una radio normale, mi si è rotto l'altro microfono e ci ho messo quello originale, va molto bene, è un bel apparecchio questo qua. Virginia, ho trovato uno che me l'ha comprato, mi ha dato 150 euro e me lo sono preso dopo, ho aggiunto 20 euro. Preciso 5 volte sì, 9 più 10 con questa radio, con 757. E quando attacchi vai a 9 più 30, come il capo uguale? Che bagava. Vai, portalo piano, vai. Ehi, sto andando, d'accordo. Ci sentiamo magari alle prossimine. KK. Vabbè dai, buona serata a tutti, grazie per il consiglio. Ci sentiamo, ho dovuto mollare stasera perché mi hanno chiamato al telefono, se no sarei stato di più. Già, col prego al martello, io anche mi sono sentato poco fa. Dai, vai, porta peso, poi sono qua, io la radio sono accesa, sento qualcuno, già rispondo. A fra bene. E ya, ci aggiorniamo dopo, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Chi è che ha breccato? KK, dai Mirko, io non ti posso dare segnale con questo apparecchio perché è un po' avaro come segnale. Comunque stai, penso che arrivi Tiago di 6-7, la radio, penso che sia 3, dai. Tu non hai segnale qua, era 9 prima. Mirko, solo di radio stai andando da me, segnale non ne hai, il tuo segnale dovrebbe essere 9 qua. Ondulazione c'è, ma segnale non ne hai, non ne hai segnale qua. Proprio si muove appena appena, il tuo segnale era 9 prima, cos'hai combinato? Ah, chicos! Allora giusto, perché segnale non ne hai qua. Niente segnale, solo radio. Avanti al tuo, buonasera. Secondo, qua c'è l'amico il segnale, sta arrivando 4, ma questo è il riminzo. Beh, è chiaro, se ce l'ha lì da te 4 è buono, ma non è, a me me ne va 9 prima, evidentemente quel diplomo che ha messo è puntato verso la zona tua, già capito, mentre l'antenna che aveva prima arrivava 9 qua. Ah, col diplomo sta uscendo, vabbè, no, non ho capito, no vabbè, comunque qua diciamo, penso che sia 7 perché calcolato questo microfono qua, questo smitter qua è un po' avaro, dai, come segnale. Io non ricordo, va bene, va bene. E allora la testa arrivando qua, arriva solo di radio, niente segnale. Tanto lo senti amico di Alghero? Appa che lo sento, buonasera. Sto provando l'87, sto provando, com'è? Una bomba. Appa, quanto è il segnale? 9 più 10 radio 5. Appa, appa, dai. Con quanti watt stai uscendo? Un po'. E se arriva lo stesso segnale io con 5 watt. Appa, no, vabbè, lo sto provando, vai. Hola. Chi che lo sento? Alghero, avanti. Appa, buonasera a te. Ehi, dimmi. Non sei agganciato. Cappa. E cazzo, allora sei basso. Vabbè, non so. Guarda a vedere ora. Ehi, poca roba, ma con l'altro, cazzo, l'altro è rimasto più forte. Eppure è strano, sta spingendo parecchio, eh. Boh, io ve lo segnale qua. Il 757, no. Non è convincente come l'altra radio, mi quando si è agganciato. Non lo so. Ora, ora. Non esaccio. Comunque già stai arrivando bene lo stesso. KK. Vabbè, adesso la facciamo andare così. E farla andare così. Cappa, dai, accendo l'altra. E forse è meglio. Allora Mirko, quello che è successo, ti si è scoppiata l'antenna, così hai detto. Ah, gli hai dato più di 50 watt e quindi. Ho capito, vabbè, mettine uno che avrei già 100 watt almeno. Eccomi Claudio. Ahia, sei tu. Cappa. Via. Te lo senta l'amico Alghero, qua mi sta arrivando Santiago 3, dai. Santiago 3, a me non ti figurati. Cappa, provo a fare un passaggio. No, sono stato bugiardo. 5 è qua. Certo, segnale 5. Terra di mezzogiorno. Aspettami, se non ci credi, guarda. Io lo telefono e ti lo mando. A ver se ti sono guardi di balli. Non è una radio forte, però non dice a cosa. Non è una radio fortissima, però arriva, cavolo. Oh, ma stai scherzando, ma segnale non ne ha, radio 5 ma segnale non ne ha, evidentemente questa radio mezzogiorno è mezzogiorno, anche perché il tuo segnale non è di solito, quindi è la mia radio, anche non ti preoccupare. Pappa cappa, dai, mi è arrivata la pizza, ci sentiamo, dai. Ok. Sì, anche sentiamo dopo, anche per te Mirko, dai, anch'io vado a mangiare, ciao. Tutti mangiuni, ciao ciao. Ciao Dino. E io invece vengo con la carbonara, così imparate. E io l'ho mangiato a pranzo, così impari. No, io sto gustando, capito, fra. Quindi un pezzo l'ho tagliato e stasera che ci do? Vabbè, meglio così, no? Che ci vuole? Roba breca. Va bene, ciao, ci sentiamo più tardi al limite. E io si conferma, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Hola chicos. Hola, hola. Cambio, non c'è nessuno, cambio. Sono stato 10 minuti a ciurare, mi sono andati. Ma sto a sganasciare, cambio. Andati, tutta drummi. Ciao amico mio di Porto Torres. Ciao amico mio di Sassari. E allora, finalmente a casa tua, come mai? C'è roba da fare, devo sistemare un computer. È già sistemato, solo che vabbè, devo salvare un po' di dati. Ho trovato un vaccino, guarda, mi fa male un bel braccio. Aspetta un attimo, sì, per secondi, Ciao, no, tipo su... Fa brillare, sì. Ecco qua. No. In mano. Ecco qua. Niente, c'ho questo dolore al braccio. Vieni dentro, Dea. Aiuto, vieni. Terzo vaccino. Ah, della terza dose hai fatto, io il 23 l'avevo fatto. Pesante, Sì. Sì, vabbè. Però vediamo un po' perché. Vabbè niente, io stamattina ho fatto il tampone, niente. Io il 23 l'avevo fatto. Io sono costretto che. Vado alla dentista, se non c'è il vaccino non ti accettano, capito? Vabbè, ma poi io anche porto mia madre all'ospedale. Un casino, un casino. Sai che tu mi dico, vai, che dolori. Già, adesso ci appaggio, ma il dolore del dentista? Non ho capito. Il dolore del dentista? Del dentista? Guarda, questo dolore, il dolore del vaccino, e dove non vai più nuda? Sì, vedi che tu mangi più nuda. Vai a cuccia a te. Già mi facciamo male il braccio ancora di quelli di luglio. Pensa a tu, il braccio sinistro sempre. Non passa il cuscino, la mi dice la maledetta. Ma ha detto uno che lavora a lupo, ci vuole tempo per passarti il dolore, capito? Un casino. Sì, vabbè, sempre meglio, vai, di biglietti di Covid. Ma ci vuole il vaccino, ragazzi, che sennò non ne usciamo più a questa situazione. Ci vuole, resistiamo. Su che andiamo? Poi, buonasera, e tu? Ciao genio, e allora? Poi, perché mi stai dando così basso e di questa radio? Amico mio, è la radio che mi ha dato tu, non ho già fatto nulla, sempre la stessa ragione. Lucchi. Ma vabbè, la radio è sempre bella, forte, ma il segnale, forse mi arrivo sempre così, non me la metto, no? No, ma sì, l'altra è che è appena più spinta, perché c'è il microfono amplificato, Questo è l'Uranus con un microfono normale, già usai. Ah, è vero. Guarda, se il microfono originale funziona bene, io ti sento alla grande. Ti raggiungo, mi viaggio in oga, nuovo, mai trattato, proprio mai usato, te ne renderai conto. Oh, il microfono di tavola. Come lo chiama Claudio, microfono di tavola. No, e mi piace tenerlo in mano, il microfono. E dal microfono si inizia. Oh, i balle tue sono. E paravagogna, in ginocchia già tutti. Ti metto la mia in mano, dai. Chi è, chi è? Uno gli ha detto che l'avete lui in mano, ma sicuramente ce l'ha piccolina, se ho capito chi è. Chi è che è entrato? No, te l'ho detto io in mano. Ciao, profe. Mamma mia, gara. Ebbè, andiamo bene, andiamo. Ebbè, già dico profetta, non mi attruggi io. Scubetti? No, ci prometto. Oh, se li faccio vedere, mi dici migliori, uno in alto all'altro. Ciao Luca, buonasera a tutti. Hai visto tu, mandagli alla profetta a quella la ragazza buona con due tette, mandagli alla profetta. Giulia Mari. Oh, ehi. Non calpestatevi ragazzi, ciao Antonio, ciao Luca, se ci sovrappopoliamo tutti quanti. Magnata di Abis, ciao Antu, magnata di Abis, già. Eia, un figurone, ero quasi due settimane che non le mangiavo, infatti ne avevo voglia, ne avevo gana, dai, me l'ho sbranata proprio 3-4 morsi e è sparito tutto. Hai fatto bene. A tanti mesi di questa magna. Di pizza. Cazzo, cosa mi hai pigliato? Per i... Ma come ti chiama? Ma non mi viene il lumignolo. Qua, come me lo ricordo te lo dico. Avanti, entri. Cappa, io l'ho mangiata poco un pochino di fa la pizza. Quattro formaggi con le patate al forno, se ci fatto buoni. Di più, fa la cara con Antonio, non penso io che lo batte Antonio, velocità. Ci gioco, guarda, 100 euro. Penso proprio di no. Oh la la, fammela vedere, fammela toccare. Cazzo, oggi, Antonio, la gigante, 4 bici, 4 mosse non viene più. Allora. Oia, non tanto non mangia Antonio. Oia. Dimmi i bomboni. Come la voce si sente che uno che mangia un po'. Ma non ti credino. Stavi mangiato, tu stavo mangiato, uno era ad Alghero, ti ne ha dato una fame. L'avresti bestemmiato in napoletano. No, non ti preoccupare, come te me l'aveva regata, l'aveva detto, ma cos'è che c'è a cosa? Allora, come tu a comprare la vestimenta gli invita la cena, usci. Che vagogna, ma ti pari, cioè abbiamo solo 70 euro, cazzo va, cioè almeno facci vedere qualcosa da mangiare. Nulla, Anto, nulla. Io me ne sono andato pure a fame, vi credi? Ci mandi sei andato? Pure un ristorante, possiamo fare la pizza, avrei preferito la margherita, guarda, apri, come si dice? Sei stato bello sazio. Ma come si chiama il tuo ristorante? Per mangiare bene la margherita dobbiamo andare a Pergola. Sì, ma non tutti hanno la pizza, siamo andati il primo dell'anno. Ah, ma vai, dove era il tuo ristorante? È proprio tu momenti dal porto, no? Nella via vecchia. Ah, il Milese o il coso, non ha aperto, Poldo. No. E va via guru via guri guru. Oia ragazzi, sto troppo male. Oia, sto troppo male. Cosa c'hai, genio? Cos'è Rugai? Male, male. Sono in malattia, sono male. Mi è arrivato un tampone, però sono negativo. Qualche colpo d'aria brutto ho preso. Guarda, tutti un che c'ha a fare, questi cambi di temperatura, sto futtendo un sacco di ieri. Se non sei più molti vestiti, al posto lavoriamo e abbiamo solo la felpa, cazzo. La mattina dice non sta facendo freddo, ci andiamo al posto, cazzo, vi ho più giù un botto, un casino. Romare è maledetto me. Romare è in pensione. In pensione te ne sei andente. Ehi, altro. E ancora va e dai, no. Piano piano, contributi già ne ho tanti. Scappa, beh, dondega. Io ho 48 anni e ho 31 anni di contributi. Meno male, per gente che non ha tanti i contributi. Avanti il break. Scappa, salutore Lupo Grigio. Penso che non gli altri amici non ti sentano, non ti sentano, non lo so, ma forse Luca è che è più vicino. Luca, lo senti al Lupo Grigio? Sì, basso, mi ascolti Lupo Grigio? ancora con un portassi. Negativo il passaggio, passo basso. Non ti ho ascoltato. Capa, ti saluta. E ti ha dato il buon anno. Qua Santiago 3 è radio praticamente inesistente, bro, il fruscio proprio non sovrasta. È vero. Ragazzi, scusate. E avanti. Ha detto che rimane in QRX. Avanti. E a dire attrezzarsi che col portatile non va da nessuna parte. Dopo io vi saluto che vado a masticare, dai. Ciao ragazzi, a più tardi se coincide, ciao. Ciao, ciao G. Ciao G, a dopo, ciao. Ciao genio, buona carica, stavo a corto, dai. Stavo a corto tutti qua, ciao, ciao, fate cosce calde a tutti, salute, ciao. Luca, come mi ascolti con l'Uranus, microfono normale? Benissimo, benissimo, ottimo, al radio. Dove sei, alle QTH ufficiale? Sì, al monte. Eia. Bene, bene, dai, oggi stavo usando la radio, mi ha mandato Eugenio, dai, il suo mitico Galaxy Uranus. E niente, dai, ogni tanto lo faccio girare, dai, lo cambio con l'altra, giusto per farlo camminare un po', dai. Ti confermo, vabbè, ti lusso. Bene, Mera, avanti Anthony. Ma sta facendo con poca potenza. Anche la potenza della radio è. Sono quasi 5 watt, di più non va. Ah, per quello. Così è. La piccola macchina a vapore. Senza filtri, così com'è, dai. Kappa. Ho già arrivi abbastanza, la verità. Oh, non sono riuscito a capire il lupo grigio da dove stava modulando. Della zona lì di... penso via Principessa Yolanda, quella zona lì. Kappa, mi vedi che mi ha confermato. No, a me mi arriva a 7. Kappa, capito? Il segnale qua è oscillante. Da Santiago 2 a Santiago 4, cioè non riesco proprio a... io lo sento basso. Scusate, lui ci ascolta bene. Ci ascolti bene? Lupo grigio, ci ascolti bene a noi? Lupo grigio, ci ascolti bene a noi? Vuol dire che è sparito. È portato, c'è un portatile, c'ha... ogni tanto passa a salutarci. Roba adesso. Kappa, no, io già ti ricevo bene, loro non lo so, lo sentite al lupo grigio? Sì, adesso più alto, segnale 5. Ma tu a noi come ci ricevi il lupo grigio? Ma guarda, se vuoi andare bene, ti compri una boomerang, io ce l'ho giù dalla 25, va benissimo, te la metti in terrazzo e va, che è una meraviglia. Ho capito. Ha giugavito. L'unica è. Perché così non si può andare avanti, non c'è. Ti sentiamo in due, capito? Il resto non ti sente. Va bene. Che sta pischiando avanti? Io non sento nessuno, ciao, buonasera a tutti. Mi sentite? Forse. Cosa ne dici? Ah, non so se mi sentite o no. A voi arrivi, no, che... Kappa di Roma, il pomeriggio, come sempre, io non lo sento, non arrivo qua. Ma pannuta brutta. Qua Santiago 4 e radio proprio in mezzo al rumore di fondo, proprio non riesco ad ascoltarlo. Comunque, salutoni. Se mi copia lo pomeriggio, non riesco ad ascoltarti, dai. La tua modulazione rimane impastata in mezzo al rumore di fondo. Comunque, dai, attivati per fare qualche miglioria. Ok, va bene. Avanti a chi tocca. Santiago, non ti vedo, il radio non ti sento. Comunque mi sono preso Lucchi, da un po' il braccio, mi fa male di meno il braccio, va. Un cazzo di vaccino, per carità, va. Per carità. Comunque c'è un bel gente col Covid a Sassari, un bel. Così ci fanno credere, poi bisogna avere Covid. Poi l'assistente che viene qua, per mamma, anche lì ha il Covid, tutta la famiglia, il figlio, piccolino, il marito, tutti. Coronavirus, ma non si può manco una vita così, no. va, che vadano a cagare, vadano. Qui c'ha di so un chitarra. A me è arrivato già il super green pass. Guarda, fai i vaccini e ti preoccupa, ormai vai a batti furruggia la canna, vai. Ma chi vuoi prendere ancora in giro? Cioè, allora va caduta a becco, vaffanculo. E non ti batta tutta la gente che è morta, Antonio, cioè. Ma la cosa morta, finiamola, non sarà proprio molto abbagliso. Guarda che è un'epidemia, a me, non è che ci giocano. Un drudio, lasciamo perdere, va. Oi. Tu, lo smitter com'è? Se lo sto... Si sta faticando oppure è normale? 9,60 sì, ma non fatica però. era una battuta, dai, siamo troppo vicini. Se vogliamo un pezzo di palo, cazzo, facciamo lo stenditoio. Tra l'antenna tua e l'antenna mia, dai. Penso proprio di sì, ti dividono qualche palazzo e basta. Oi. Sta guardando lo strumentino, picchi positivi. Dai, già va bene, dai, questo piccolo barattolo nero. Che antenna stai usando, Bluffer? Luca, la boomerang. La boomerang è quella che mi ha dato Daniele, sempre quella, Sempre quella. Quella grande? Ehi, la boomerang è quella, la REM, quella da... 2,75 dai. Dai, come la mia. Vabbè, vanno bene quelle antenne. Ti sento dappertutto a te. E la mia è da terrazzo. Ah, comunque già va bene, ascolto tutti. Non ascolto Alghero, il produttore è un po' basso e posso pretendere. Praticamente è nascosta, ecco, alla fine il posto mi va benissimo. Mi ascolta bene, di lusso. Già se lo fa è tanto il suo lui. Io c'ho, vabbè, c'è Monteoro davanti, quindi per Alghero sono un po' negativo, dai. Però pio pio qualcuno già riesco a sentirlo ogni tanto quando entra. Non lo ricevo fortissimo, comunque appena comprensibile, dai. Vabbè, per l'antenna che è un quarto d'onda va più che bene. Il tanto suo già se lo fa, dai. Ah, senza dubbio. Poca spesa, molta resa. Grazie a Daniele che mi aveva fatto un omaggio. Ho provato la Ringo, me l'aveva data un paio di settimane, l'ho provata, ma come scendeva l'umidità, come prendeva acqua, le stazionarie salivano di brutto. Poi fatto un confronto con questa, buccia e tutto, questa gli faceva 10-1, dai. Ma così, senti, basta saperla trattare l'antenna, e se non è che ci piace l'antenna non si buona in nulla. Cioè, devi isolarla, devi, se no logico ti dà problemi. Vedi io, ho 1-1 sono, e ti faccio anche la fotografia e te la mando, perché lo strumento attaccato. Lo si muove a meno, lago. È che bisogna mettere le cose giuste, bisogna mettere il grasso, bisogna mettere queste cose qua per non entrare in umidità. Sì, Anto, vabbè, quando l'ho provata l'ho messa tutta a piombo, non è che sono uno sprovveduto, dai. Ho fatto quello che si doveva fare, regolato bene praticamente le stazioni attraverso quella piccola molla che c'era, fatto tutto come si tocca e niente, non c'era verso. L'ho tenuta due settimane e non mi è piaciuta e quindi l'ho restituita al legittimo proprietario e ho rimesso questa, dai. Niente di che, a me mi ha dato, non mi ha entusiasmato molto. Ciò non vuol dire che sia una brutta antenna. Ho fatto quello che dovevo fare, ho isolato quello che dovevo isolare, però non mi ha entusiasmato, dai, per cui ho preferito rimetterci quella che c'era. Ma io non ne ho stazionare, solo quando piove appena appena, ma appena però. non le ho stazionarie, poi però funziona bene, già lo vedi che sta uscendo. E non è che sto buttando un baracchinetto, no? Ehi, Anto, ci credo, ti sto dicendo, ti sto raccontando la mia esperienza. L'ho provata con tutti gli accorgimenti del caso, fatto quello che si doveva fare, isolata, trinche, tracche, ballacche, però quando c'era umidità o pioveva, l'antenna era un po' a contusione, per cui ho deciso di levarla e rimetterci la boomerang, capito? Vabbè, però la mia funziona bene, non me ne dà problemi. La mia è isolata bene, laggiù bocciolo, lo grasso laggiù bocciolo, e non me, è tranquillo che non mi danno nulla problemi, Già lo vedi che sta andando. Però ti ripeto, non è che io uso radio, io uso anche un amplificatore grosso, non mi dà nessun problema. Ehi, ehi, vabbè, ti ripeto, questa è stata la mia esperienza. E ciccia, vai. Luca, ci sei ancora? Sì, sono qua. E Claudio? Claudio, ci sei? Accendo, sto io, accendo. Bene, bene, dai, un altro paio di passaggi e poi vi saluto. Oh, via, Magimonia della Bizza. Sono con un po' di Ghibala ancora, dai. Comunque va bene così. Ci voleva. Ehi, ti ho detto, sto facendo, mi hai sentito, sì? Sì, sì. Oh, via. Adesso via, non mi rispondi. Fate, già sono qua io. Gappa, gappa. Vai, manda a fammi la doccia, ci sentiamo dopo. Ah, così la su piacu di fava muscia. Non è su piacu di fava. Vabbè, là, fiamo di campanoni di Natale, là. Gioia. Dai, signori, io vi saluto, dai. Salutami a tutti, Claudio, Anthony, Luca, Lupo Grigio e gli ascoltori, dai, ce la risentiamo domani appena coincide, ok, dai, buona serata, buona carica quando la fate, buona doccia e buona fava revisare a tutti. Ciao prof, buonanotte, alla prossima. Ciao prof, adios. Ehi, ciao, vai, ci vediamo alle prossime. Esci, che poi io sono la mamma, va. Ci sentiamo dopo. Ciao, ci sentiamo. Che bagna, va pure a te, vai a battere la va. Okay. è successo? Qualcosa? Rumori c'ho? No, stavo controllando io. Il mio Smith stava facendo la comparazione tra un 430 e l'altro, vabbè. Adesso questo è un bel più alto, sto segnato. Vabbè. Non posso fare niente io perché è stato fatto 06 da chi e quindi è così, facciamo di fretta allucinante. Vabbè, ma anche mi sa che il tifo che ho giù è poco più alto là, del solito, che arrivo praticamente tutti così alti, vorrebbe poco abbassare. No, ma questo è uguale, che c'hai un bel IPT di modulazione con una, invece con l'altro il segnale sta bene, capite? Sì, 9-10 con una e con l'altra sì, 9-10, cazzo, ma picchi di modulazione a 9+20. Sì, questo qua sì. C'è un bel picchi di modulazione, è vero, ma colgo dallo Smitter. Hola. Ah, io te lo do, questo rimane così, mi guarda già se mi dai i coperti, che se mi devo mettere d'accordo per il prezzo, qualche manopolina, anche il frontalino mi deve dare, così è nuovo, non c'è nessun graffio, questo è tutto graffiato. Le foto quando me l'ha spedito, cioè quando mi hai mandato le foto non si vedeva bene, pensavo che fosse nuovo, invece è un arrivato tutto graffiato, e vabbè, dai. Gianni, hai coperti nuovi. Che cosa, di quello lì? Sì. E la batteria, cosa lo dico a tutti? Adesso voglio vedere quanto vuole. Vedo un po' quanto vuole, però almeno le metti i coperti nuovi. Il radio come sta andando bene? Perfetto. E cosa sto usando? Boh. 430 sto usando. Manco un altro tipo di microfono. Vabbè, se 430 con un altro tipo di microfono già è buona, però non è che sia questo granché. 430 già è un granché, il microfono magari che non è un granché, però già funziona bene. Lo so che la radio è buona, il microfono magari, ma comunque già va bene, dai. Io ormai che allora, il discorso è questo, sono abituato a sentirti con l'WC60 da anni, quasi 30 anni, quasi. E questo che microfono è? Ma il mio! No, questo che sto usando adesso che microfono è? Non è cambiato niente? No! Vediamo un po', e questo che microfono è? 1, 2, 3, 4, 5, che microfono è questo? Questo sembra... ha cambiato qualcosa, qualche tanto è toccato, vuoi rumattessi? Non so tu di figlio. Ehi, caro, non mi devi imbriagare, non sono netti, 40.000 microfoni, mi puoi imbriagare tu voi. No, questo è l'MC50. MC50 sempre col 430. Gappa. Posso salire ancora, beh. Ola. Sempre dalla... senza Mikey Gaming, abba. Sì, no, vediamo, vabbè, dai, però la miglior modulazione è l'MC60, non è venuta di qua. Lo so, questo è l'MC50, però almeno ecco già va bene, dai. Non è come il 60, ma già è abbordabile, già va bene. Sì, a voglia. Sì, no, lui, grazie, il microfono non li uso più io, cioè ne ho tanti, sono tutti dentro l'armadio. Adesso li ho messi tutti sopra il ripiano, a uno li sto provando a vedere se funzionano. E sono tutti connessione che input, mi capite, è un peccato non usarli. Sì, ma si conferma. Si conferma. Vediamo, arrivo un pacchettino con... la prossima settimana c'ho il dentista, dai. Certo ci mi mandati in una biglia. Oh, manco bassonio qua. E io ho detto stamattina perché non posso andare lui, capito? Non posso uscire. No, io in realtà io già sto bene, e poi sto facendo poco e niente, dai. Andiamo a fare la spesa, entriamo e metto la mascherina, poi il tram non sono affollati nemmeno, non stanno da nessuna parte, capito? Che casino, ragazzi. Poi allora il discorso è che a quanto ho capito c'è gente furba che si usa i green pass degli altri per andare nei posti, siccome non controllano i documenti, dovrebbero controllare i documenti se combaccia. Bravo, infatti è così, capito? È così. sì, sicuramente. Ah, Gussi, Gussi, ma niente, che è positiva, che ha qualche sintomo, è contagia agli altri. Non fanno i controlli, bisogna controllare i documenti anche. Ma infatti Varia sicuramente l'ha preso così. Cazzo, ma tua figlia ha preso vaccino? Allora, tutto va, preso vaccino e tutto. Purtroppo la gente, c'è gente di merda in giro. C'è gente di merda. E vabbè. Guarda, Raria, non prende gente che impassi. Assolutamente. No, non entra nessuno a bacchi che diverso. Sì. Allora, Maria, vedi. Perché lo felice entrano in tutti. Non te ne domanda mai. Tipo ad Alghero se tu vai al ristorante è Green Pass, se sono bugiardi a tavolino fuori Green Pass, ti chiedono del Green Pass qua. È normale, le persone serie te lo devono chiedere, ma c'è gente che non te ne chiede, tu, capito? Lo so. Già lo so, vabbè. Basta avere comunque dello zucchero, della... Secondo me... sono i furbetti e così non ne usciamo più, vabbè, io alla fine lo volevo fare, non lo volevo fare, ma purtroppo sono stato costretto che devo finire col dentista, no, non esco più, non esco più. Guarda, se tutto va bene finisco a maggio forse. No, io non ho problemi con i denti, grazie a Dio, è che ogni 10 mesi faccio la pulizia. Quindi avevo l'appuntamento ieri alle 10 e mezza, cioè stamattina alle 10 e mezza, e ho disdetto perché non posso uscire. Cosa devo uscire a fare? Vabbè, meglio non avere problemi qua. Meglio. Vabbè, ma tu c'hai il terzo vaccino? No, terzo non posso fare io ancora. Ho capito. Vabbè. Sono stato costretto, purtroppo, poi anche mia madre sa che c'ha tante patologie, poi la porta all'ospedale, se all'ospedale non c'è il Green Pass non ti va ad entrare. Mi è arrivata la notifica del terzo, c'ho l'app io, come si dice? C'è scritto qua il 13:25. Ah, di oggi, mi arriva così. Perché il primo l'ho fatto il 25. Allora, aspetta. Allora, il primo l'ho fatto il 25/6/2021. Il secondo l'ho fatto l'8/7/2021. Il terzo l'ho fatto ieri alle. Mezzogiorno. E allora, vabbè. Vedo che metto l'MC60 a vedere, così mi dici se è la mia modulazione e sono tranquillo con questo, con questa radio. Sì, fai. Io sono? Hai visto quando metti il 60? Come scherreggia? Se te l'ho detto. Aspetta. Se te l'ho detto, quando lo metti 60 è 60, è inutile. Dal 1986 lo uso questo microfono, già gli arriva. Ma ormai la modulazione la conoscete, c'è niente da fare, no? Aspetta che abbasso. Trova dei picchi di modulazione allucinante sta radio. Sì, va alla grande. Questa l'ha presa in mano quella persona là, l'ho tutta revisionata, ha messo il filtro M, ha fatto un bel allineamento, però c'ha dei picchi di modulazione allucinanti. Tu un FM non mi fa vedere, ma un FM era di 300 watt. Sì, addirittura. Bella. Va bene, la voce è bella. Però l'MC60 qua è un'altra musica. L'MC60 è ultimo. È ultimo. conosciamo così.